sempre suonando il piano forte. Dice ognuno chi lo sa a che cosa penserà. Quando egli suona piano piano forte forte, chi può mai saper quali sono i suoi più riposti pensier? Lungo la tastiera con volubile abbandono, la sua mano leggera sfiora i tasti con ispirazione, socchiude gli occhi e con le sue pupille assorte par interroghi il mister dei suoi magici pensier. Quando Semprini sta suonando il piano forte, dice ognun chissà in questo momento a che mai penserà. Probabilmente pensa a casa dal padrone, al quale deve ancora pagare la pigione. Pensa purtroppo che han bisogno i figliolini di scarpe nuove vestiti. Pensa allo zio Enrico e la cugina Marta, pensa alla moglie pure al conto della sarta. E a un terno secco pensa pure fra di sé, 38, 20, 33, quando Semprini sta suonando il piano forte. Dice ognun chissà in questo momento a che mai penserà. Pensa a un ombrello che ha lasciato sul diretto, pensa che un dente gli fa un male maledetto, e alla partita che non può vedere domani fra l'Ambrosiana ed il Milan. Ma tutto questo pensa come non bastasse, gli viene in mente anche la gente delle tasse, ripensa agli occhi della bella Vivi Joy e pensa pure ai fatti suoi. Quando Semprini